Buona giornata a ogni ascoltatore di Radio Big World che sta seguendo questo programma. Anche oggi parliamo nell'ambito di mescolare acqua e vino, parliamo di qualche cosa che acquisisce valore più di quello che ha quando è mescolata con altre opportune attività. Tutti conosciamo il detto, che è un po' sessista ma che ha dominato da tanto e ancora si sente: donne e motori, gioie e dolori. Se fossero le donne potrebbero dire, se fossero le donne a parlare potrebbero dire uomini e motori, gioie e dolori. Quindi togliamo un attimo questo aspetto sessista della parola donna e traduciamo questo donne e motori in relazione con persone e cose. Io stamattina vi vorrei parlare di questa relazione tra noi e la nostra automobile. Oggi nessuno che ha qualche attività o qualche interesse un pochino più ampio può fare a meno di utilizzare l'automobile. Eppure questo strumento creato dalla civiltà del XX-XXI secolo è uno strumento che ci schiavizza abbastanza e rispetto a quello che ci dà ci chiede tantissimo. Abbiamo acquistato la nostra automobile, 20.000 euro. 20.000 euro vuol dire che noi per avere quella macchina abbiamo dato una quantità enorme di ore di lavoro che abbiamo capitalizzato, immobilizzato attraverso il denaro, no? Se io lavoro, qualcuno per cui lavoro mi indennizza per le mie capacità che ho speso a suo favore e per il tempo che ho speso a suo favore. Come mi indennizza? Mi indennizza dandomi del denaro. Oggi è questa l'attività corrente. Quindi io questo denaro lo spendo, se riesco a metterne da parte una certa quantità, lo trasformo in un piccolo capitale che poi, quando andrò ad adoperare, dovrò ricordarmi che quel piccolo capitale non è un pezzo di carta o qualcosa di simile, ma è il mio lavoro accumulato. E accumulare lavoro è un po' come cercare di accumulare energia. Sono due cose difficili. Quella dell'energia è più immediatamente visibile agli occhi come problematica. Pensate, arriva la corrente elettrica dai pannelli fotovoltaici. È giorno, c'è il sole, c'è luce, arriva la corrente elettrica. Noi l'utilizziamo, però sappiamo che di notte la corrente elettrica sarebbe molto necessaria perché è buio, dobbiamo accendere le luci, dobbiamo effettuare in questo periodo un riscaldamento dell'ambiente in cui viviamo. Ma i pannelli fotovoltaici di notte non funzionano. Allora, come facciamo per accendere la nostra luce in casa e avere il tepore nel nostro ambiente? Ci rivolgiamo alla rete e alla rete chiediamo energia che in qualche maniera è accumulata da un'altra parte. Dov'è accumulata l'energia? È accumulata nei bacini di montagna che poi azionano le turbine e gli alternatori che producono energia elettrica. è accumulata nelle centrali dove si brucia combustibile adatto per produrre energia elettrica. Quindi accumulare energia, e noi si è visto l'esempio dei pannelli fotovoltaici, è una cosa molto difficile, come accumulare denaro è una cosa abbastanza difficile. Ritorniamo alla nostra automobile. Siamo andati a comprare 20.000 euro sull'unghia, si dice, la nostra automobile. Abbiamo dato in cambio a quella struttura meccanica, al produttore di quella struttura meccanica, abbiamo dato in cambio dei soldi, oppure abbiamo firmato delle cambiali, oppure abbiamo preso un mutuo per pagare. Quindi vedete com'è difficile pensare al denaro. Il mutuo per pagare sono soldi che ancora io non ho, quindi è un accumulo che non esiste, che però faccio finta che esista. Andiamo sull'automobile. Allora, bella, una bella automobile di soddisfazione. Mettiamoci al volante. Voglio andare dove? Boom. Piglio l'acceleratore, utilizzo il mezzo e mi ci trovo. Attraverso un paese, semaforo rosso, fila davanti al semaforo. Allora, cosa faccio? L'automobile vuole essere servita. L'automobile non sa che c'è il semaforo rosso. L'automobile sa che in quel momento è fermo. Io devo servire quell'automobile, perché appena scatta il verde, il mio cervello deve dare un comando al piede destro di pigiare l'acceleratore, al piede sinistro di lasciare la frizione e alle mani appoggiate sul volante di mantenere il volante nella posizione giusta. Insomma, il motore della mia auto, che era in moto, in realtà era inefficace, perché eravamo fermi al semaforo rosso e dovevamo attendere. Quando si riattiva il movimento dell'auto, l'auto vuole da me una serie di servizi, che erano quelli del piede sull'acceleratore, sulla frizione, eccetera, e quindi io divento il servo della mia auto. Poi partiamo, prima, seconda, terza, quarta, frena, accelera, guarda, fai, pensa, ma quello lì mi vuole sorpassare, ma cosa vuole da me? Lui 50 cavalli, io 200 cavalli e lui mi vuole sorpassare, accidenti, ma io non capisco come fanno a esserci delle persone così stupide che riescono a immaginare che con una macchinuccia si possa superare il mio SUV. E mi lampeggia anche, mi lampeggia di dietro, sono proprio innervosito. Siamo in fila, davanti a me c'è le macchine, sulla sinistra c'è le macchine, non mi resta che subire il lampeggiamento dei 50 cavalli che sono dietro. Ci muoviamo piano piano e sento a un certo punto che la macchina non risponde benissimo, a qualche problema. Allora mi accosto su un ambiente di sosta, la ruota di dietro è parzialmente sgonfia. Allora 50 cavalli voleva dire, guarda, c'hai una ruota sgonfia, può essere pericoloso. E io me la sono presa tanto per un servizio che una persona mi stava facendo, ma ho perso la testa, sono proprio stupido. E ripartiamo con la mia macchina. Siamo arrivati dove volevo. E cosa faccio ora? Io devo andare là e la macchina è qui. Spengo il motore, la lascio sulla strada. No, perché non è possibile. Dopo 5 minuti arrivi il carro attrezzo per la porta via. Allora devo andare a cercare il parcheggio per fare un servizio alla mia macchina, che si deve riposare nel luogo giusto e non da qualsiasi parte. Bene, finalmente lo trovo. È un pochino stretto, deve entrare tra due macchine che saranno una davanti e una di dietro, e lo spazio non è tantissimo. Ancora devo fare un bel servizio alla mia macchina, devo fare le manovre, devo cercare di non sciupare la mia macchina, non urtare le altre, mettermi nella posizione giusta. E sai quante volte giri il volante, pigio il freno, lascio la frizione, attacco il motore, stacco, pigio l'acceleratore. Finalmente riesco a parcheggiare la mia macchina. Ora, a questo punto, se ci pensi con freddezza, la macchina è servita a te o te stai servendo la tua macchina? Ovviamente la mia affermazione è provocatoria, perché la macchina è servita anche a me. Però questo strumento, che mi permette di andare da un posto a un altro con un dispendio di energie limitatissimo, in realtà sta diventando un padrone della nostra vita. Pensa un po', se per andare a Roma invece della macchina avevo preso un bel treno, io non avevo da guidare, non avevo da parcheggiare, non avevo da irritarmi per qualcuno che stava avanti o dopo, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Però a Roma col treno ci si può andare, a Frascati col treno non ci si può andare, e allora la macchina mi serve. Ma voglio concludere: il problema non è le donne, i motori, gli animali che possano far parte della nostra vita, il problema è la relazione. Tutte le volte che noi ci relazioniamo con un'altra persona, un'altra cosa, un animale, una natura, bisogna capire bene la voce di quelli con cui ci relazioniamo e fare in maniera di ottenere il massimo di qualità nella nostra relazione con chiunque essa sia, persone, mezzi, natura, animali. Ti saluto e buona giornata. Ciao ciao.